con te sole mio, per te il pianto mio, oh luna, luna, luna tu, nasconditi di più. Potrai vincere col tuo solito, ci sei o ci fai e cambi la realtà. Così ti amerò di tutti i miei pensieri, di te grido mio mi inventerò. Così ti amerò, sorprenderò l'immenso, pagato sei qui dentro me. E sì che t'amo anch'io, controllo inutile, più facile morire se tu non ci sei. Così ti amerò al di là del tempo mio, così ti amerò, lo sai, così ti amerò, da cattedrale ad Africa, non negherò quel vento che sei. aggiusta sempre in fondo dove finisce il mondo, quello.